A bordo campo di Dario Ricci. I fatti di cronaca calcistica di questi ultimi giorni li conosciamo tutti. Ebbene, allora noi di A Bordo Campo siamo andati a cercare un po' di aria fresca, un po' di aria buona in tutt'altro contesto, ben lontano dai campi di calcio. È stato naturale allora andare a Trento per il Trento Film Festival, che si è chiuso proprio in questi giorni. Grande kermesse della montagna e soprattutto della cultura della montagna e dell'alpinismo e di tutte le discipline alla montagna collegate. Qui abbiamo incontrato due protagonisti assoluti, straordinari dell'alpinismo e della montagna, e oggi andiamo proprio a presentarveli. Partiamo da Angelika Rainer, 27 anni, meranese, tre volte campionessa del mondo di arrampicata su ghiaccio, una delle eccellenze dello sport italiano nel mondo. Un incontro per conoscere meglio una campionessa, ma anche una donna che non sfida soltanto la forza della gravità. Sentiamo. Ospite d'eccezione oggi a bordo campo, perché dal Trento Film Festival ai nostri microfoni Angelika Rainer, classe 1986, meranese e soprattutto tre volte campionessa del mondo di ice climbing arrampicata sul ghiaccio. Beh, Angelika, sei un fiore all'occhiello, o meglio una stella alpina del nostro sport. Sì, sono dei risultati veramente molto belli che ho ottenuto in questi anni. Già da sempre volevo raggiungere un gradino in una gara internazionale sin da quando ero bambina, e quindi questi sono stati dei risultati molto importanti per me. Poi, come sappiamo tutti, nell'arrampicata non esiste solo la gara, ma esiste anche l'arrampicata fuori, in montagna, in falesia, su ghiaccio. E quindi sono molto contenta che in questi anni ho avuto possibilità di vedere molti posti e di scalare in molti posti diversi. Ti dicevi appunto da bambina, no? Che succede a casa quando una bambina come te va e dice: non so, non voglio fare il medico, il ricercatore, l'ingegnere, ma l'arrampicata? Penso che mamma e papà comincino a guardarti con qualche perplessità. No, beh, è stata proprio mia mamma a portarmi già da bambina in montagna a fare le passeggiate, e quindi è stata lei a avvicinarmi a questo ambiente. E sin da bambina mi arrampicavo ovunque, sui sassi, accanto al sentiero e sugli alberi in giardino, e quindi è stata lei a capire che forse era questo lo sport giusto, e mi ha iscritto al primo corso di arrampicata che hanno organizzato alla palestra nuovissima di Merano, e a 12 anni ho incominciato così a conoscere questo sport che anch'io poi ho visto subito era il mio. Senti, qual è il panorama internazionale, soprattutto al femminile, perché qualche campione maschile ci viene in mente, ma l'universo rosa dell'arrampicata su ghiaccio, devo ammettere, è abbastanza uno sport per esperti, per adepti. Sì, beh, in gara come nazioni fortissime, sia uomo che donna, ci sono la Russia e la Corea del Sud, hanno squadre molto grandi e gli atleti migliori, diciamo, e c'è come ghiaccio e dry tooling fuori all'aperto, e negli ultimi anni è fortissima la ceca Lucy Hrosova, e poi vabbè, molto nota e famosa Ines Papert, tedesca, che partendo dalle gare ormai in giro a esplorare le pareti del mondo. Dialogo con la montagna, credo che questa disciplina più di altre sia anche una forma di rapporto con la montagna. Cosa dici alla montagna durante le tue imprese agonistiche? C'è veramente solamente il risultato della gara, la concentrazione è talmente alta, o si riesce a dialogare con quella roccia? Ma sicuramente mi godo sempre i momenti in montagna, comunque l'ambiente da me è preferito. Questa settimana una domanda di una giornalista è stata se riuscirei a vivere senza vedere le montagne. Ho detto no, cioè riuscirei a abitare, diciamo, non so, in Liguria o a Verona, dove riesco a vedere ancora una collina, però altrove non riesco a immaginare. E quindi sì, le montagne fanno proprio parte della mia vita e sì, è sempre un momento bello essere lì e scalare una via significa trovare un metodo per salire. Sicuramente non è come veniva definito una volta la lotta contro la montagna, questo oggigiorno direi che non esiste più. Certo, si dialoga e ci si viene a patti, no? si approfitta degli spazi che la montagna ci lascia, diciamo. Sì, esatto. Bisogna capire anche ogni tanto che bisogna tornare indietro, oppure una via è troppo difficile o troppo difficile per il momento e bisogna allenarsi di più per riuscire a affrontarla. È un momento importante quello che stai sottolineando. Quanto ti costa una rinuncia? Devo dire che finora non ho proprio rinunciato a una via. Mi viene in mente quando ho provato la via più importante, via alpinistica più importante che ho fatto, la via Italia 61 nel gruppo Sella. Quando l'ho provato la prima volta la mia impressione era bellissima, però è troppo difficile per me, dovrò ancora fare esperienze e allenarmi, però non riuscivo più a togliermi dalla testa. Un mese più tardi sono tornata, ecco, un mese non è così tanto, insomma non sarebbe bastato per allenarmi, però bastavano già le temperature un po' più miti e la voglia di farcela, e ho visto che era possibile. Da lì ho incominciato a provarla, poi veramente in 10 tentativi poi l'ho chiusa. Insomma, testardaggine della campionessa vera. Rinunce maggiori per una donna che affronta questo sport? È più difficile in rosa confrontarsi con la montagna e con tutto magari l'ambiente maschilista che c'è intorno? Ma con la montagna non direi, la montagna non fa differenza e quindi dipende dalla scelta degli obiettivi che uno si pone. E sì, ogni tanto nell'ambiente si vede che insomma non fa molto piacere a qualche uomo vedere che una ragazza scala sullo stesso grado, che scala facilmente un grado che provava, però devo dire che non ho fatto molte esperienze brutte. Era stata un'unica che mi ricordo molto, che ero ancora ragazzina e non si trattava neanche di arrampicare ma di tracciare delle vie in palestra per una gara, e mi avevano invitato di farlo e c'erano dei ragazzi che erano seduti al bar. A un certo punto hanno detto a voce alta: ma questa qua cosa fa qui? E il capo tracciatore che mi aveva invitato ha detto: lei che lo sa fare meglio di tutti. Quindi gli ha la questione si è risolta subito. Sì, esatto. Però mi aveva, ecco, non fatto proprio piacere la cosa. Senti, sempre parlando di rinunce, immagino che ci possa essere nel futuro l'idea della maternità, magari. Pensi che questo possa essere un progetto percorribile per un atleta che fa questo sport al livello che lo fai tu, oppure lo ha già messo in calendario? Oppure sì, è sicuramente un tema. Sì, ho 27 anni, quindi ci sto pensando, insomma non per tra uno o due anni, però sì, lo sto programmando e comunque spero che in questi anni riuscirò a avere ancora molte soddisfazioni per essere un po' più libera dopo. Vorrei comunque star dietro a un bambino che, insomma, come si deve, non portarlo solo in falesia, dove sto provando io la mia via. Spero di arrampicare ancora, cioè penso di arrampicare ancora, insomma di non avere infortuni e dover smettere, però vorrei anche essere un po' più tranquilla da parte mia. Magari a quel punto qualche vacanza al mare ci può scappare, insomma. Sì, o anche solo la camminata in montagna anziché stare solo in falesia. Non solo in verticale, Sì, esatto. esatto, dove il bambino deve stare sotto e guardare. Senti, ti chiedo ancora, tu sei rappresenti un po' una quota rosa in questo sport, anche se non siete poche, no? Abbiamo detto voi donne, ecco, sul tema quote rosa in politica, che se ne è parlato tanto, qual è il tuo parere? Cioè, pensi che debbano essere rappresentate con un numero garantito le rappresentanti femminili, oppure competizione aperta in ambito politico e chi merita va avanti? Sì, sicuramente chi merita, ma penso che ci sono molte donne che meriterebbero, però per via di molti ostacoli che gli vengono posti spesso è più difficile. Mi ricordo solo di aver sentito l'intervista di un'imprenditrice che diceva io pur essendo più intelligente del doppio dei miei colleghi ho dovuto lavorare il triplo per ottenere questo. Insomma, direi che il consiglio è quello di seguire un po' la via che stai tracciando tu, no? Insomma, sfidare questi pregiudizi e ostacoli che forse dagli e dagli si superano. Sì, esatto. Penso che ci siano molte donne in gamba in tutte le discipline o in tutti gli ambiti e spero prima o poi che arriveremo a un pari. Senti, prossimi obiettivi agonistici, perché insomma c'è un titolo da difendere, ci sono tante avversarie da tenere indietro, quindi prossimi obiettivi. Sì, c'è un titolo da difendere, anche se dopo 3 vittorie so che è molto difficile e sarà forse anche la volta che riuscirà, cioè devo abituarmi al pensiero che potrebbe riuscirci anche qualcun altro. Comunque il mondiale nell'inverno prossimo si svolgerà proprio a casa mia in Valpassiria, a Rabenstein, e quindi ovviamente ci provo e proverò a dare il mio meglio, però per l'inverno prossimo sto programmando anche due viaggi, due spedizioni dove fare arrampicata di misto e su ghiaccio, e quindi sono molto motivata anche per quello. Beh, posso confermarvi che guardando i tuoi occhi credo che per le tue avversarie ancora ci sarà da soffrire parecchio. Angelika Rainer, grazie per essere stata nostra ospite a bordo campo e un grande in bocca al lupo per la prossima arrampicata allora. Grazie mille e grazie a voi. A bordo campo. Dell'alpinismo mondiale, oggi protagonisti qui a bordo campo, li abbiamo incontrati nel recente Trento Film Festival e l'ospite di cui oggi sentiremo la testimonianza è davvero un campione assoluto. Krzysztof Bielicki, polacco, classe 1950, è infatti uno dei miti dell'alpinismo mondiale. È colui che ha compiuto la prima ascensione invernale di 3-8000, l'Everest nel 1980 con Leszek Sziszi, che è stato anche il primo 8000 ad essere salito d'inverno, poi il Kanchenjunga nel 1986 con un'altra leggenda dell'alpinismo mondiale, Jerzy Kukuczka, e il Lhotse nel 1988 in solitaria. Bielicki è inoltre il quinto uomo ad aver salito tutti i 14-8000, alcuni dei quali utilizzando ossigeno supplementare tra il 1980 e il 1996, un periodo che di fatto sta continuando ancora ora, in cui la Polonia è una delle nazioni guida dell'alpinismo mondiale, prima sulla spinta del regime comunista che vedeva nella conquista delle vette un inevitabile specchio della propria egemonia e grandezza, e poi per paradosso con gli stessi stimoli una volta che il muro è caduto. Ancora oggi sono spesso polacchi i protagonisti delle ultime grandi sfide agli 8000 della Terra. Ebbene, l'incontro con Krzysztof Wielicki è stato anche ed è l'occasione per fare il punto su queste sfide, ma anche e soprattutto sulla cultura della montagna, su quello che è il presente e il futuro dell'alpinismo mondiale, e vedremo e sentiremo come anche un mito come Wielicki, in realtà più che essere preoccupato dalla conquista della vetta, lo è dalla difesa e della tutela di quello straordinario ambiente montano, alpino, che rappresenta un patrimonio di tutta l'umanità. E allora sentiamola l'intervista con Krzysztof Wielicki. Allora, con Krzysztof Wielicki, uno dei più grandi alpinisti della storia. 168 centimetri, allora non è grande. Molto modesto rispetto agli 8000 che ha scalato. Krzysztof, occasione, questo meeting di Trento, il Trento Fish Festival, per fare il punto sul presente e il futuro dell'alpinismo. Che futuro c'è per gli 8000? Sappiamo che ce ne sono due ancora inviolati in inverno, il K2 e il Nanga Parbat. C'è questa corsa alla vetta, o qual è il futuro che si apre per questo? No, diciamo, se diciamo alpinismo invernale, sì, sono due scopi, Nanga Parbat provate, non so, 17 volte, K2 3 volte. Allora, se, questo è un challenge, si chiama, ma non mi sembra, se anche i miei amici fanno tutte queste due vette, l'alpinismo non sarà finito, perché sai, in modo personale, per tutti, per ogni alpinista è tanto da fare. In modo di storia, sì, poche cose ancora per fare, perché tutto che hanno fatto 50, 60, 80, ma in modo personale è tanto da fare per qualcuno che viene montagna, anche gli 8000, se prima volta là, per lui è tutto virgine, perché sta là, sai, lui può essere, avere un'informazione che qualcuno ha fatto, sai, con la storia, ma per modo personale penso che mai si finisce l'alpinismo. Allora io sono ottimista, ma certamente si vede tante cambiate, sì, l'alpinismo commerciale è difficile dell'alpinismo, noi diciamo turistica di alta quota, perché un po' differenza, ma non possiamo fermare gente, se gente vuole andare vanno là, ma penso che vero alpinismo va dove non ci sono commerciali, sì, perché si trova tanti anche 6000 metri virgine, le vette che si può scalare, parete, allora tanta da fare, penso. Quasi vi è voglia di sperare che questa stagione dei record finisca presto, no? Per tornare un po' alle origini dell'alpinismo. Sì, perché penso che questa filosofia di record è venuta un po' da media, sai? Perché media ha spinto gente per fare subito, presto, primo, secondo, ma questo è un po' fuori di alpinismo vero, sai? Allora, ma sai, media sono problemi, non sono con l'alpinismo. Media ha cambiato la nostra vita, tutta la vita è cambiata. Guarda, adesso media entrando in campo base, media entrando la nostra vita, prima non era possibile, ma non si può fermare, sai, cosa puoi fare? Media sono media. Da Trento parte anche un forte messaggio di rispetto dell'ambiente, forse può essere questa una nuova frontiera dell'alpinismo. Noi siamo obbligati, sai, questo è il nostro obbligo, che dobbiamo salvare la natura. Penso che gente che amano montagne capiscono, ma forse per giovani dobbiamo un po' educare loro che montagne non sono oggi, sono per futuro. Allora dobbiamo dobbiamo salvare queste montagne. Allora qui c'è grande lavoro, educazione. Penso che manca educazione in montagna, si vede iniziative che fanno un po' con l'educazione giovani, ma questo è il nostro lavoro. E ti chiedo ancora, si discute molto dei rischi che prende l'alpinista. Come ho detto, è nostra scelta, scusa. non sei obbligato a fare le montagne, non sei obbligato a scalare, non sei obbligato a rischiare, ma è nostra scelta, perché a noi dà emozioni, sai? Gente che hanno fame di emozioni, non tutti, ma tutti che vanno in montagna hanno fame di emozioni. Noi diciamo, se hai passione non devi dire perché hai passione, devi dire perché non hai passione. Se gente che hanno passione sono fortunati, non devono spiegare. So, è certamente un po' difficile spiegare, dicono, perché tu fai montagne, perché fai scalate. Penso che è meglio dire che è cosa molto intima, ogni persona segue sua via. Bisogna accettare che rischio è nel pismo, ma noi vogliamo. Il tuo prossimo obiettivo, nel senso che diciamo che la carriera forse è completata, anche perché gli obiettivi sono quasi tutti raggiunti, ma sì, sei un po' un apostolo della montagna. Sono sempre occupato con l'invernale, nell'Himalaya, allora proviamo a trovare soluzione per gli ultimi due, Nanga Parbat K2, ma anche sono un po' occupato con piccole vette virgine in Hunza, in nord di Pakistan, dove sono aree mai sconosciute, 6.000 metri. Si può sentire un po' come esploratori di anni 1990, che loro hanno fatto grande imprese, ma adesso anche a livello più basso si può fare, che senti nessuno è là, né uno gente. Allora mi interessa quello, essere un po' piccolo esploratore. Allora, in bocca al lupo per la prossima vetta e soprattutto per la prossima avventura. Grazie tanti, saluti. Anche per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Roberto Scaltritti in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci attraverso il nostro sito web radio24.it, dove potete anche scaricare il podcast di A Bordo Campo e dialogare con noi attraverso il blog della trasmissione. Per scriverci invece l'indirizzo mail è abordocampo@radio24.it. Ora spazio a tutti i convocati weekend. A Bordo Campo torna domenica prossima, come sempre alle 16.30, e in replica il sabato mattina alle 6.15. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.